Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Turbe punta Ansaldi, proverà ad andare sul sinistro verosimilmente, poi scarica Acqua! Questa volta con precisione nell'angolino, la mette dentro, non giocava titolare da 5 mesi. C'è rammarico e rimpianto perché le occasioni in finale potevano darci comunque la vittoria per la volontà e per il carattere, per lo spirito che comunque la squadra è riuscita a mettere sul campo anche stasera. Parte Mertens! Mertens! Magnifico! Il gol di Mertens, il 20° in campionato! Dopo la sostituzione di Jorginho abbiamo fatto peggio tutti a livello di squadra, quindi molto probabilmente ho fatto una cazzata io a Toglio. La risposta bianconera, c'è Asamoah pronto a ricevere. Eccolo il cross, dentro per Cuadrado! Dopo 7 minuti la Juventus è in vantaggio, secondo gol in campionato per Cuadrado! Punti scudetto no, però è un passo avanti importante. Noi abbiamo una parte di finale del campionato molto difficile, quindi oggi era importante vincere perché poi dopo alla ripresa del campionato abbiamo ancora di nuovo il Napoli. Arriva al limite, Dzeko passa, va da Strootman, chiede 1-2, ancora Dzeko in area, Dzeko! 3-1, che è anche 31 i gol in campionato, o meglio in stagione, del bosniaco. Non era facile avere una reazione così, hanno avuto una reazione da grandi calciatori, da campioni, da professionisti veri. Beh, Gianmarco Ferronato c'è in regia e si sente con i Foo Fighters che ci distraggono dai temi di una giornata di campionato che è stata, insomma, abbastanza scontata, tanto che Pardo ha stravinto la schedina, mi risulta, ma di questo parliamo dopo. Ciao Pierluigi. Ciao, sì, poi occupiamoci di notizie, questo, insomma, il fatto che abbia vinto la schedina rientra ormai categoria delle cose talmente banali, talmente logiche. Il solito sborone, come dicono a Milano. Carta canta, hai ragione. Non si può dire nulla, possiamo solo aprire delle indagini in procura. Possiamo solo. Ho chiuso con un buon 7 anche stavolta. Sì. Siamo della media. Possiamo solo aprire delle indagini in procura, anche sul tuo telefono si sente benissimo, speriamo in meglio nel prosieguo della trasmissione. Giorgio Ruga, nostro autore, Edoardo Lavezzari ovviamente in redazione. Allora, è una giornata nella quale i brividi più intensi ce li hanno regalati gli allenatori. Allegri che si arrabbia come una bestia per il secondo tempo della Juve a Genova, dove la Juventus vince un altro bel pezzettino di sesto scudetto. Non era una partita facile, in quell'imbuto era finita contro il Genoa. La Sampdoria è una delle squadre rivelazioni della stagione, Cuadrado, gol, partita in cassaforte, eppure Allegri si è arrabbiato lo stesso. No, perché ce l'avevamo noi la palla, buttiamola fuori. Però sono malizie che ancora qualche ragazzotto non ce l'ha. Però bisogna imparare alla svelta, perché altrimenti sono situazioni che non vanno bene. Come è successo il primo tempo, abbiamo buttato 4 volte la palla fuori noi, perché loro erano in terra, in quel momento lì Daniel Alves era in terra, poi avevamo la palla noi, non è che ce l'avevano loro. Ti è arrabbiato più lì o a Modena l'anno scorso alla fine col Carpi? Insomma, ci siamo vicini a tutte e due le cose. Speriamo che porti bene come a Modena. A parte il fatto che io la palla vieterei per regolamento di buttarla fuori, a prescindere, ma questo è solo il pretesto, il ragazzotto cui si fa riferimento Allegri e Rugani, eviterei per regolamento con ammonizione di buttarla fuori apposta, perché è una cosa che io detesto, però fa parte di quelle piccole malizie del calcio di oggi. Pierluigi, ma si può arrabbiarsi dopo aver vinto una partita come quella di Genova? Io lo sostenevo ieri e lo sostengo oggi, secondo me è una grande marcia di avvicinamento verso la partita, le partite che contano, che sono ormai quelle con il Barcellona. Sì, ma devo dire che non si è arrabbiato nell'adrenalina della partita, ma non credo che sia triste oggi. Insomma, no, ma triste no. È arrabbiato, è chiaro che il processo di crescita di una squadra che vuole vincere passa attraverso i dettagli, tu dici. Per delle, appunto, delle malizie, per la necessità di non staccare mai la spina, di essere sempre molto sul pezzo. Insomma, Allegri questa cosa ce l'ha, e credo che, insomma, non ci sia proprio niente. Anche qui non c'è, è un po' come la mia schedina con Capuano, cioè non c'è nulla di, non c'è notizia, non c'è nulla di sorprendente. È la logica di un allenatore, di una squadra che stanno controllando il campionato e che ovviamente nell'adrenalina di una partita equilibrata che in qualche modo la Samp poteva anche rimettere in piedi, portano l'allenatore a arrabbiarsi per due minuti, tutto qua. Sì, certo. Intanto 10 a Buffon per la carriera, ennesimo 10 per l'ennesimo record, 39.711 minuti in campo con la maglia bianconera, superato il monumento Gian Piero Boniperti. 9 alla Juventus, se proprio vogliamo dare i numeri, come le vittorie nelle ultime 10 partite. Dove la vedi la notizia te in questa giornata? No, la notizia, guarda, diciamo in qualche modo anche già ieri pomeriggio, la notizia secondo me è la mini notizia, perché non c'è niente di sorprendente o di stupefacente, sono i due pareggi di Lazio e Inter, sì, che sono le due piccole sorprese della giornata, secondo me, non a caso due delle tre partite che ho sbagliato. Pensavo che... No, ma nel senso che... No, pensavo che facessero pieno, insomma, risultato, e sono due punti abbastanza sanguinosi, perché comunque sono due squadre di rincorsa per l'obiettivo Champions, questi, certo, due punti persi, anche perché rischia di rovinarci, insomma, di mandarci in vacanza molto prima. La Lazio è stata comunque partita per l'obiettivo Europa League, quindi sta facendo comunque, e il Cagliari, attenzione, in un buon momento, sta facendo lentamente al di sopra di quelle che erano le aspettative di partenza, e l'Inter ha una corsa tutta in salita, è un po' la maledizione di Pioli, che sta facendo benissimo, però in questo suo far benissimo appena non neanche sbaglia una partita, appena per qualche, insomma, elemento anche, insomma, non riesce a fare i tre punti, già diventa un problema, no? Perché la corsa è talmente, la strada è talmente stretta per l'Inter per agganciare un posto in Champions League, che non può sbagliare mai, anche perché, esatto, quelle due davanti su cui avevamo posto qualche dubbio, in particolare sulla Roma, poi non hanno sbagliato. Per carità, avevi ragione tu e torto io, però ero curioso, mi permetti, sì, la curiosità di vedere questa Roma. È andata sotto, però secondo me era un po' una partita cartina al tornasole, anche per quanto riguarda tutto quel casino, quel fumo che c'è intorno a Spalletti, a questa Roma con Pallotta in città, con la storia di Spalletti del contratto, di cui poi approfondiremo il discorso dopo le 15, dopo Gera delle 15, in maniera approfondita, con una meravigliosa supercazzola confezionata dai ragazzi in regia e redazione. Spalletti sul suo contratto, ancora lì. C'è da riprendere la partita, vai sotto di un gol. Se perdi la partita anche stasera, non è più qualche episodio che ti è andato male, ma è un periodo, diventa un periodo. Poi doverne riuscire, si sta sempre a parlare del mio contratto, che non conta niente. Non conta niente per me, non conta niente per la Roma, perché qui le cose passano velocemente. Perché lì si sta a fare la parafrasi, no? Passano velocemente, che vuol dire? Ma allora, guarda, io penso questo. Il punto di partenza è che la Roma, come del resto il Napoli, ogni tanto va ribadita questa cosa, perché sennò poi c'è una, secondo me, una percezione sbagliata. Roma e Napoli stanno facendo cose grandi. Roma e Napoli stanno provando a competere con una squadra che ha un budget superiore, una tradizione superiore, una forza superiore, una squadra che quest'anno ha iniziato la campagna acquisti con l'acquisto di Higuain, cioè il miglior giocatore del Napoli, e l'acquisto di Pjanic, cioè uno dei migliori giocatori della Roma. Questa è la sostanza, quindi è una lotta impari. Insomma, Roma e Napoli fanno il possibile per riuscire a rimanere lì. Questi secondi e terzi posti, che magari ingenerano anche un po' di frustrazione dell'ambiente, in realtà sono risultati più che buoni. Poi è ovvio che la Roma si è complicata la vita in quella settimana lì, e il Napoli, che ha beccato il Real Madrid in Champions, perdendo a Torino, adesso è lontana dall'obiettivo Coppa Italia. Cioè, manca un premio di consolazione per queste due squadre. Detto questo, le stagioni sono stagioni buone. Poi su Spalletti Spalletti si sente accerchiato da una parte di stampa romana. Ma sì, ma il motivo io non lo capisco, poi chiameremo dopo le 15 uno dei decani della stampa romana, come Roberto Renga, insieme a Ciccio Graziani. No, lo so, non è facile, cioè, sono le radio romane, c'è il Ponentino, ma lo sappiamo. Secondo me la conferenza stampa l'altro giorno comunque è una sconfitta. Ah, certo. Un grande allenatore, una grande società devono volare alti, quindi devono un po' fregarsene dei virgolettati, andiamo, che non piacciono. Andiamo su un ultimo tema che poi discuteremo e che mi ha fatto molto ridere, cioè la storia di Sarri e dell'ora di pranzo che non gli va giù. Ma preferisco partire più lontano, non capisco perché negli ultimi 5 posticipi anticipo a mezzogiorno e mezzo, 1-2-3 siamo coinvolti noi, un orario a cui nessuno può giocare. La differenza fra me e gli altri è che io lo dico, che a me fa schifo giocare a mezzogiorno e mezzo e gli altri non lo dicono. Anche perché magari agli altri schifo non fa, e poi non è vero che il Napoli gioca così spesso alle 12:30, sta giocando 2 volte in tutto il campionato. Empoli-Napoli è stata preceduta solo la trasferta di Cagliari alla 16ª giornata l'11 dicembre del 2016 e sarà seguita quella contro Sassuolo la 33ª giornata 3 volte in tutto per Sarri e il Bucatino, Ma sì, ma che dobbiamo parlare? A me dispiace perché di confine. Secondo me è oggettivo. Sarri è un grande allenatore da grande squadra e francamente non ci guadagna, secondo me, a dire queste cose. Questa è la mia idea. Poi, no, secondo me non ci guadagna a dire queste cose. Sassuolo Napoli potrebbe far caldo quel giorno lì, che ma sì, ma la 33ª giornata, Pierluigi, avremo già tutti i verdetti bollati dal notaio De Luca. Ma stiamo scherzando, ci fermiamo un attimo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde. Più tardi dovremmo avere uso il condizionale per scaramanzia, il presidente del Palermo, neo presidente o neo tale o futuro tale, non si è ancora ben capito, comunque Paul Baccaglini. Questa mattina Zamparini si è alzato e ha appena aperto gli occhi e ha detto: adesso licenzio l'allenatore. Ah no, non sono più presidente, aspetta, fate un comunicato, non è vero, lo scopriamo dopo. Tutti convocati. Pardo, oggi sottraiamo Gilletti per qualche minuto dall'arena di Rai 1. Eccolo, come va? Tutto bene, tutto bene. C'è partita fra Juve e Barça? Come no? Ma nel calcio c'è sempre partita e credo che mai come oggi, con la situazione della Juventus, con la quadratura che ha trovato la squadra di Allegri, ci sia la partita, perché non dovrebbe esserci? Non fare lo scaramantico, No, c'è stata nella finale di Coppa Campioni la partita. Quest'anno c'è la maggior ragione. Quindi non vedo perché non ci debba essere. Non mi sembra un Barca pazzesco, la Juve vediamo come andrà, ma insomma se la gioca sicura. Senti, Pierluigi, questa domanda la faccio a Pardo, poi Massimo aggiungi pure quello che vuoi. Hai notato qualche malizia quando ieri Dybala si è toccato la coscia? Niente di grave, però indurimento, ha dovuto andare in Argentina a farsi visitare, secondo me torna indietro con l'aereo successivo. Può essere, però insomma, grande malizia non la trovo, mai trovo precauzione, trovo preoccupazione, mai un po' di... Ma ormai come le rughe dell'allenatore della Roma, no? Cioè stanno lì a vedere se si tocca, se si ferma perché c'è malizia. Io leggo di tutto, sento di tutto, ma a un certo punto credo che quando uno ha un problemino si deve fermare prima che sia troppo tardi. Questa è la storia di tutti. Forse non l'ha fatto Dybala in occasioni passate, non l'ha fatto e fatto fuori per molto tempo. Certo. Assolutamente, no, ci vuole grande, no, non dimentichiamoci, stanno fuori fra il 22 ottobre, se non sbaglio, inizio di dicembre, fra quel Milan-Juve e Juve-Dinamo Zagabria, quindi stanno fuori un mese e mezzo. Io credo che ci siano giocatori più predisposti e più attenti ai segnali del corpo, questo sì. Per esempio un giocatore nella Roma che ha queste caratteristiche, Manolasse, uno che appena sente un minimo, ma è una forma di prudenza, forse anche di intelligenza, no? È la capacità di sentire subito, di sentire in anticipo i segnali del corpo e quindi magari di non prendersi un rischio che altrimenti che altrimenti sarebbe stato... Comunque ha risposto Allegri, ha detto che erano 3 o 4 giorni che aveva dei problemi, quindi evidentemente gli hanno detto se senti indurirsi il muscolo al minimo segno, al minimo segno alza la mano che ti tiro fuori. Massimo, Allegri arrabbiato con il sesto scudetto praticamente in tasca, 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Ripeto, è secondo te, come secondo me, una lunga tappa di avvicinamento verso le partite che contano ormai, cioè è un lungo allenamento da qui a là? No, perché le partite difficili per la Juve ci sono la trasferta di Napoli, la trasferta di Roma, la trasferta di Bergamo. Io a memoria ricordo uno scudetto buttato via con 8 punti di vantaggio, credo a 4 giornate dalla fine più o meno. No, nel calcio italiano non c'è nulla di scontato, basta pochissimo, poi mi sembra che la Roma ormai avrà solo più il campionato, quindi anche lo stesso Napoli, se vince contro la Juve domenica la prossima partita, va a meno 7. Non è mai... Io il calcio credo sia il posto dove si fanno i discorsi più superficiali e banali di tutti, e li sento dire dall'inizio dell'anno che io ho vinto lo scudetto, ma io vado alla matematica... Lo stabilirà, sarò contento. Prima no, ecco perché Allegri è arrabbiato, perché basta calare un attimo la tensione e succedono episodi come quelli che magari ieri sera a Regini all'ultimo minuto lo hanno lasciato staccare così, se la palla andava dentro stiamo qui a parlare di altre cose, magari riaperto no, riaprichiato insomma, perché io non riesco a vedere un segnale di possibilità di rimonta. Che queste due partite con Milan e Samp l'abbiamo più visto, e ha ragione Giletti, sicuramente c'erano ancora 2 scontri diretti oltretutto fuori casa per la Juve, quindi ancora margine potenziale di recupero c'è, però insomma, se dovessimo giudicare dai segnali che il campionato ha dato nelle ultime 2 partite, direi che il discorso è chiuso. Insomma, se già fosse arrivato un pareggio in queste 2 partite con Milan e Stamp, magari con la Roma a meno 6 avrei... Sì, era un'altra storia, ma non è successo questo. Non è successo questo, ed è una capacità comunque di acqua, insomma, rientriamo a fare la moviola una settimana dopo perché... di Juve Milan, ma che ieri insomma la Juve ha dato una grande dimostrazione di forza, di solidità. Sì, ma anche queste moviole continue, su tutto quello che accade alla Juventus è francamente abbastanza fastidioso, perché l'arbitro quando non dà il gol a Milano di Pjanic regolare, no, ma tutti tranquilli, tutti zitti. Quando succede che ti dà un rigore all'ultimo secondo che è uguale all'ultimo primo minuto, perché la matematica è quella, si aprono mille cascate, si sta zitti sul rigore non dato a Dybala all'ottavo, e c'è un atteggiamento così come si vuol dipingere Juventus legato alla criminalità organizzata. Senti, a proposito di criminalità organizzata che entra spesso nella tua arena, criminalità e calcio è il segreto, cioè la collusione che esiste da molte parti, è il segreto peggio custodito dello sport? Guarda, io ho fatto una puntata speciale dedicata proprio alle curve, sì, e a chi c'è nelle curve, quindi sono uno che ha avuto minacce abbastanza pesanti anche poche domeniche fa quando ho trattato temi che riguardano Calabria e Sicilia, quindi sono uno che è convinto che il calcio italiano sia malato storicamente di complicità. E non credo alla leggerezza, credo forse di più alla complicità, cioè che per tenere buone determinate curve i dirigenti abbiano mantenuto dei comportamenti disinvolti, no? E la battaglia di Lotito, io sono sempre stato con Lotito sulla battaglia che ha fatto contro veri delinquenti, che poi insomma quando uno tiene in casa 182 kg di droga del capo degli ultra della Lazio, insomma mi sembra evidente. Il calcio fa finta di non vederli. Da qui a dire poi che la famiglia Agnelli, nel senso che Andrea e i vertici juventini abbiano rapporti con la criminalità calabrese è la solita spiritiera anti-Juve, perché la polizia, se sapeva che questi erano dei parenti legati al sistema, allora li lasciamo andare in giro tranquillamente. Non è che puoi sapere chi c'è dietro una persona che tu puoi anche incontrare come capo di una determinata aggregazione di curva. Sì, normalmente non gli chiedi l'esibizione della fedina penale. No, però c'è il problema, cioè l'indubbile ambiguità del pallone, la verità deve essere andata, deve essere cercata fino in fondo, ma non puoi sapere tu a chi stringi la mano in quel momento il curriculum vitae di questa persona. Se lo sapesse la polizia probabilmente non lo farebbe andare in giro. No, no, ma infatti su questa faccenda ci sono magistrati che stanno facendo il loro lavoro. No, ma vorrei che fosse chiara una cosa: la Juve nel processo penale, la Juve nel processo nella nazione penale non entra neanche, è solo testimone. Sì, lo sappiamo. Abbiamo letto le carte. Poi la Procura federale ha un altro potere, altri ambiti di movimento, e l'abbiamo visto anche, no, nel famoso processo del 2006. Quando si scelse di lasciar fuori l'Inter, perché penso che questa è stata una linea chiara, evidente, perché negli anni poi si è dimostrato che l'Inter aveva addirittura responsabilità maggiori, ma stranamente non entrò in quel processo, perché bisogna far fuori un sistema. Quindi andiamo cauti con i paragoni, atteniamoci ai fatti, poi le responsabilità verranno fuori in processi sereni, sì, non quelli che fa la procura, perché è molto superficiale la procura. Sì, beh, a dire la verità, Massimo, su 2006 lo lascerei in cavalleria insieme alle sentenze che ha prodotto quel procedimento. Ma qualcuno poi mi spiegherà perché l'Inter non è mai entrata in quel processo. Qualcuno lo dovrà spiegare, perché tutto è andato in prescrizione. La morale a casa mia non va in prescrizione. Qualcuno mi dovrà spiegare perché di quelle 20.000 pagine se sono lette semplicemente 19.800. Quello è il 200 che riguarda quell'altra società che, come ha detto Palazzi, procuratore, aveva responsabilità all'Inter ben superiore alla Juventus, lo ricorderà Pardo. Tutto prescritto. Perfetto. Uno fa un processo e guarda solo 20.000 pagine, tranne 200 che riguardano un'altra società. Permettetemi, che mi sembra molto curioso. È un tema che abbiamo affrontato mille volte, che secondo me deve essere affrontato ovviamente con un equilibrio di posizioni, di punti di vista. Io non vorrei che adesso, in questo momento che non si riesce a frenare la Juventus sul campo, si inneschi un altro meccanismo. Dove? Malavita uguale Juventus. No, questo lo escluderei. Mi sembra abbastanza palese che c'è un tentativo di questo tipo. Con ovviamente il rispetto assoluto per il lavoro dei magistrati, con l'attesa del lavoro dei magistrati, della magistratura ordinaria che sta indagando su queste vicende. Hai fatto bene a ricordare lo Stato. Ma se per due anni sono stati intercettati dalla procura ordinaria, sì, ne escono come testimoni e non come imputati. Mi sembra, al di là del processo che si svolge non nelle aule di giustizia ma nei bar italiani e presso l'opinione pubblica, questo è un altro discorso. Però io mi attengo alle carte, e questo è, cioè la Juventus è dopo intercettazioni di due anni, come dici tu, la Juventus appare come testimone, punto e stop. Quindi questo è quanto. In quanto tale, io non riesco a vedere alcun disegno di volto a screditare comunque la Juventus. Massimo, ti ringrazio, ti lascio tornare nell'arena, sei molto carico, grazie. Alla prossima, Massimo Giletti, grazie. Alla prossima, grazie. Ciao, Pierluigi Pardo, stai lì perché tra poco arriverà, De Luca fa segno di sì, Paul Baccaglini, neo presidente forse del Palermo. Tutti convocati. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 26 marzo al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione. Il lato comico dell'attualità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Pierluigi Pardo, c'è un signore che ti vuole salutare. Eccoci, ciao. Paul Baccaglini, presidente del Palermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come va? La mia compagna ha lavorato con Pardo, sì, un uomo straordinario, quindi sulla fiducia io penso che sia un uomo straordinario. Un uomo straordinario Pardo. E posso confermare quello che non c'è bisogno della storia, conferma che è una donna straordinaria, perché insomma abbiamo contezza tutti, però sì. Un po' di anni fa in una roba un po' di nicchia ma divertente sul canale satellitare di quelli che stavano nascendo, ma ci siamo divertiti molto. Senta, presidente, la chiamiamo sì. Così? Oppure ci diamo del tu e ti chiamo Paul? Non so, vedi come vuoi. Allora, oppure facciamo ti una chiamo, cosa. Ti chiamo, ribadisco, la presidenza. Ribadisco a tutta Italia che sono il presidente del Palermo, viste le illazioni di questa mattina, ma diamoci sì. Del tu e perfetto, chiamami Paul. Perfetto, così come ci diamo del tu con Zamparini, che vista l'abitudine dopo moltissimi anni, presidente, dopo moltissimi anni, stamattina si è svegliato, ha detto: oddio, devo licenziare l'allenatore. Poi ha aperto gli occhi e si era accorto che non era più presidente. È andata così? È una sovrasemplificazione, però diciamo che non è facile sicuramente il distacco, ma io credo che si sia confuso questa mattina un po' anche quelle che sono state le dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui io dissi che c'è un dialogo aperto con il presidente Zamparini, il presidente uscente Zamparini. Questo dialogo c'è, ma c'è così come con tante altre persone. Certo. Il presidente del Palermo sono io, decido io chi rimane e chi va via. Diego Lopez è il nostro allenatore, Diego Lopez sarà l'allenatore del Palermo fino a fine stagione. Ciò sicuramente Zamparini ha le sue opinioni e le dice e le ha dette, ci siamo confrontati ieri sera, ma poi sono io che decido e sono io che faccio le valutazioni. Ecco. Mi sembra nella norma delle cose per uno che ha colto la presidenza, come hai fatto tu. Pardo, quando Baccalina tiki-taka? Quando vuole. Quando vuole, pure stasera. Pubblico. Noi siamo a Milano, ti aspettiamo a braccia aperte, ti do del tu, perché chiaramente insomma è uomo di televisione, ha lavorato per tanti anni alle Iene, c'è un aspetto anche anagrafico, per cui insomma poi ha uno stile diciamo friendly all'americana, all'inglese, no? Quindi sai che in inglese non c'è proprio lei, nemmeno il voi come forma, esatto. Verbale. No, però volevo capire qual è la cosa che ti ha colpito fino a questo momento di più. Nel senso che sono state giornate piene di cose nuove, no? Ma sicuramente il mondo del calcio è un mondo che ha tutta una serie di regole che finché non ci metti la faccia non capisci fino in fondo. Sicuramente c'è una voglia di fare scandalo, c'è una voglia di parlare di tutt'altro che calcio. Però in realtà questo, io ho parlato molto nelle settimane passate della crescita del brand del Palermo Calcio e comunque l'attenzione mediatica che abbiamo avuto, siamo usciti sul Washington Post, sull'USA Today, la Force India ci ha pagati con la nuova macchina che partirà a Melbourne, quindi l'operazione sta proseguendo. Certo è che mi va anche di ribadire che il pubblico, i palermitani, i fan sono straordinari, anche ieri a Udine sono stati veramente incredibili. Io non so se tutti i nostri giocatori si siano resi conto della responsabilità e del peso che ha la maglia rosa-nero. Queste ultime 9 giornate sono 9 giornate in cui bisogna guadagnarsi il rispetto e la fiducia anche dei tifosi, perché questa è la Serie A, questa è una piazza importante e bisogna tirar fuori una grinta in più se vogliamo arrivare alla salvezza. No, ma anche perché l'Empoli si è praticamente fermato, ha fatto un punto nelle ultime 8 partite, insomma con queste medie normalmente si retrocede, mi sembra che le ultime 4 siano tutte un po' a motore spento, presidente, il primo che accende il motore si salva. È la verità, infatti io credo che già dal giro di boa con il ritorno del campionato un po' si stiano già cominciati a fare i calcoli aritmetici dicendo beh allora la retrocessione, in realtà se noi guardiamo al nostro calendario, il nostro calendario non è neanche malaccio, abbiamo la bella per così dire in casa con l'Empoli all'ultima giornata, quindi Cioè, è solo questione di testa, bisogna accendere quella macchinina, come hai detto tu correttamente, chi accende il motore, chi parte per primo, arriva allo sprint finale. Mi sembra che la verità stia nei numeri, stia nei fatti. Ci sono due scenari, immagino, in qualche modo l'avevi già fatto capire in conferenza stampa, che tra il tu e lei mi imbroglio, ma ci sono due scenari, immagino, no? Dal punto di vista degli investimenti, quello che non cambierà comunque è l'investimento, immagino, su Trent Palermo, che poi ha una potenzialità enorme in giro per il mondo, sappiamo, insomma, che il mondo è pieno di siciliani. Anche dal punto di vista dei diritti televisivi è uno dei club più appetiti, me lo confermi, Pardo, no? Sì, beh, sicuramente, ma no, io ve lo vedo, ma San Presidente lo saprà sicuramente, dei margini enormi anche all'estero, nel senso che c'è una comunità particolarmente forte. È chiaro che i risultati sportivi sono decisivi, nel senso che se la squadra va bene, allora puoi andare a fare le tournée, puoi fare il merchandising, puoi fare tutto questo. Ma tornando al punto di partenza, ci sono due scenari, ovviamente, in caso di salvezza o di non salvezza. Beh sì, in conferenza stampa ho parlato di piano A e piano B, letteralmente. Certo è che ci sono comunque delle tematiche ricorrenti sia dell'una che dell'altra, dell'altro scenario, cioè lo stadio nuovo è un progetto che noi presenteremo a breve, perché ovviamente per celebrare il calcio a Palermo bisogna dargli la casa che si merita. La cosa veramente incredibile è che i palermitani, voi che conoscete il calcio forse meglio di me, in realtà amano talmente la loro squadra che se tu gli dai un progetto pulito, chiaro, cristallino, limpido e coerente, ti seguono in capo al mondo. Se fosse la... Sì, assolutamente. Quindi secondo me questo è quello che noi gli dobbiamo. Noi gli dobbiamo la coerenza al progetto e il rispetto alla maglia. Poi si può anche andare in Serie B, ma bisogna andarci a testa alta, e comunque ci sono ancora 9 giornate per arrivare al nostro obiettivo. Fa una certa differenza. Senti, Presidente, della diffidenza della piazza e di molti media nei tuoi confronti, cosa ti senti di dire? Anche l'altro giorno ho letto tra virgolette quella frase di Zamparini: prego perché vada tutto bene, eccetera eccetera. Cosa ti senti dire a proposito di questo? Allora, quella è una frase che è stata un po' decontestualizzata. In realtà Zamparini stava parlando, io ho sempre detto, questo è un progetto che è una sorta di riorganizzazione e riassesso del gruppo Zamparini per intero. All'interno di questo progetto ci sono tutta una serie di tematiche sull'agricoltura, sulla cooperativa agricola, che possono creare nuovi posti di lavoro in Italia. Quindi ecco, vista la grandezza di questo progetto, Zamparini diceva: beh, spero che sia tutto vero, ma perché veramente, se ci riusciamo, facciamo una cosa che può avere un eco e una risonanza importante per l'Italia. È ovvio che ho 33 anni, sono tatuato, ho fatto la televisione e quindi non rappresento il canone classico del presidente di calcio. Ma questo purtroppo è un'etichetta un po' italiana. Noi siamo fissi e fermi ad alcuni parametri che ci rendono immobili. Il mondo dell'alta finanza italiano, mi permetto di dirlo, non è che in questi ultimi anni ha riscosso dei successi clamorosi, e no, questi sono fatti anche di cronaca. Quindi io, come dissi in conferenza stampa, voglio essere giudicato dai fatti. E devo dire che i palermitani stanno cominciando a giudicarmi dai fatti, anche se finora le due partite non è che ci stanno dando ragione. Però è un passo alla volta, ci sono anche delle iniziative che stiamo facendo con l'università, ci sono tutta una serie di progetti che stanno attorno a quello sportivo. Quindi io credo che da questo si potrà vedere anche la credibilità o meno del progetto. È lì che sono molto contento di essere giudicato. Ma chiaramente. Pardo, cosa da aggiungere prima di salutare il Presidente? No, gli faccio in bocca al lupo, credo che ci sia l'esempio di Ferrero, che anche qui è difficile giudicare un Presidente da soltanto dai risultati sportivi da pochi anni, quindi bisognerà poi valutarlo come tutti i Presidenti ai poster, no, ai poster, come si diceva una volta, l'ardua sentenza, sì. I famosi poster. Però ecco, se dobbiamo giudicare un altro presidente non convenzionale dal punto di vista dei risultati sportivi di questi primi 3 anni, tutto sommato sta facendo bene, quindi insomma il discorso è sempre quello, che poi ci sono delle etichette che la gente si porta appresso che magari in qualche modo possono inficiare il giudizio, ma all'inizio, poi dopo un po' conta nei risultati, per cui bocca al lupo e vedremo ovviamente. Grazie Presidente, ci sentiamo presto, buona giornata. Ci sentiamo presto. Di Zamparini siamo sempre stati molto amici, ci mancherà in un certo senso, mancherà un po' meno agli allenatori licenziati, ma comunque noi abbiamo cominciato a conoscerci. Grazie a Paul Baccaglini, ci fermiamo per il traffico, sì certo, per il traffico, 800 24 0024 è sempre il nostro numero verde e vi aspettiamo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Tutti convocati. Tutti convocati e vi aspettiamo, 800 24 0024 è il numero verde. Allora adesso riallacciamo Pardo per uno dei... Sì, Giorgio De Luca è arrivato in veste di inequivocabile notaio, anche se Pardo ha detto tutto, della schedina e della sfida, della disfida tra Pardo e Capuano. Pardo e Capuano. Vi ricordo che dopo il GR torneremo a parlare a tambur battente di Roma, di Spalletti, di giornalisti sfigati e di tutto quello che sta succedendo, di quel tutto il fumo o pollo arrosto che c'è nella capitale, o sarebbe meglio dire abbacchio arrosto che c'è nella capitale, perché io voglio vederci chiaro, vorrei vederci chiaro in mezzo a quel fumo. Tanto questo è il momento più atteso da Pierluigi Pardo. Ecco, soltanto che siccome la puntata è abbastanza tranquilla, si gonfia. No, siccome la puntata è abbastanza tranquilla, cerchiamo tra Giletti e Baccaglini. Rubiamo un minuto per dire quello che già ha detto Pardo. Oramai è un successo tira l'altro per Pierluigi, che vola più 3 su Capuano nella sfida interna. Sì. E anche stavolta ha fatto parecchi risultati. Ha indovinato parecchi risultati. 7-5, una vittoria facile, direi. Diciamo che cosa ha sbagliato Pierluigi. Ha sbagliato la Lazio e Bologna-Chievo. E Bologna-Chievo, che aveva messo X. Ha messo X per un è passato in vantaggio Chievo, ha detto questa l'ho acchiappata, invece poi ci si è messo Verdi, tra l'altro convocato in nazionale da Ventura, e ci si è messo pure di Franceschino che l'ha messa. Appuntamento venerdì prossimo con la schedina alle 15:05. Mi pare che 8-5 il vantaggio di Pardo stia assumendo. Mancano soltanto 9 giornate da Juventus, mancano soltanto 9 giornate, potrebbe essere la tendenza. A parte che questi sono numeri che provengono direttamente da Capuano, cioè Capuano che sostiene aver vinto 5 volte. No, ma confermo, da notaio confermo. Ma sì, vabbè, ma comunque sono ragionamenti di retroguardia. Non ti fidi neanche dell'autorità, che vuoi fare? La revisione del processo? All'inizio non è che ci fosse una grande rivalità, per cui non è che proprio le contavamo, poi è venuto fuori un numero in cui ero sotto, adesso insomma. Da quando ho capito che bisognava impegnarsi, insomma, le cose sono cambiate. Sì. E i risultati si vedono. Sì. Senti un po', ma cosa mi dici di Sarri contro Logorio del calcio moderno? Tu racconti le partite all'ora di pranzo. So che a quell'ora anche per i telecronisti, insomma. Raccontami com'è la tua preparazione alla partita, al racconto della partita delle 12:30. Poi sentiamo Salvatore D'Ancona. Dipende dove sto, se devo muovermi in macchina quel giorno lì o se sono già sul posto. Mettiamo però, che insomma, sei già sul posto. Diciamo, la cosa più fastidiosa è che non si pranza, ecco, questo è il tema. Il tema è che si pranza dopo. Però alle 3 è difficile, insomma, non è... Io non amo particolarmente quello slot lì, però... Però, sei come Sarri? No, non sono come Sarri. Io trovo che la cosa di ieri sia veramente senza senso, perché a parte che le statistiche non dicono questo, ripeto, può dar fastidio il 23, cioè ovviamente adesso in quest'ultimo slot di partite il Napoli per 2 volte gioca alle 12:30. Era successo a Cagliari, ma quello, come ha detto lo stesso Sarri, non era un problema perché era dicembre. Mi sembra come la polemica della un'altra chi volta gioca prima e chi gioca dopo. Mi sembrano temi un po' di retroguardia che alla fine... Questo è ancora più di retroguardia. Rischiano di generare qualche alibi. È questo che secondo me è sbagliato. Le grandi squadre di solito rifuggono gli alibi e li considerano un grande nemico. Spesso parliamo di comunicazione, di importanza della comunicazione per gli allenatori. Mi sembra che in questo momento sia Sarri che Spalletti stiano un po' battendo in testa. Cioè, onestamente, poi ne parlo con gli ospiti che verranno dopo le 15, però Spalletti, con questo suo modo di condurre anche delle specie di crociate, di guerre sante, magari sto esagerando, di battaglie mediatiche, mettiamola così, è un profilo da Juventus? Beh, io credo che non, la conferenza stampa dell'altro giorno non gli abbia fatto bene. Cioè, secondo me il primo a poter risentire di quella conferenza stampa lì è Spalletti, e secondo me Spalletti, quella lì è stata una caduta dovuta al suo nervosismo. Poi io non credo che abbia tutti i torti, cioè io penso che ci siano sicuramente un po' di, cioè, un eccesso di critiche. Oggi c'era appunto questa battuta questo virgolettato che ieri ha citato in conferenza stampa sulla bomba antiecologica. Insomma, ci sono delle cose abbastanza fastidiose e secondo me il bilancio di Spalletti è un bilancio molto positivo. Probabilmente lui è arrivato comunque con delle storie tese, con una parte almeno dei giornalisti romani, sì, di simpatia, di poca simpatia reciproca. C'è il messaggio dell'altro giorno per Pallotta che è arrivato da questo giornalista romano. Insomma, c'è un progresso, ed è un progresso sicuramente poco piacevole, quindi sì, questo è un problema. Secondo me non ha tutti i torti sulla anche sostanza, però l'uscita dell'altro giorno è un'uscita infelice, che fa male soprattutto a lui, perché certo, non c'è perché dubbio. Invece i grandi club mediamente hanno bisogno di normalità, e quando non c'è la normalità è perché la non normalità la sceglie il diretto interessato. Il caso di scuola è quello di Mourinho. Mourinho è stato un grande manipolatore dei giornalisti, no? In maniera un po' più raffinata di Peterson e Bianchini erano stati due grandi manipolatori. Mourinho ha fatto delle cose anche gravi, diciamo, dal punto di vista, ha avuto anche delle uscite non elegantissime nei suoi anni italiani. Io me ne ricordo molto bene. Ah. Fu anche un episodio addirittura quasi di mani addosso. Sì, detto questo, Mourinho aveva un controllo della situazione, cioè era lui che stabiliva l'agenda, era lui che decideva, era lui che stabiliva le regole di ingaggio. Senti, nel salutarti ti lascio con questo, Pardo, ti prego, stasera comincia un po' prima. Sì, e anche questa settimana cominciamo un po' prima, la settimana prossima. Arrivederci, grazie. Ciao, Italia. Ciao. Ciao Pierluigi, ci sentiamo dopo, affronteremo il tema Roma. Tutti convocati. Convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su RDS.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ricominciamo tutti ai nostri posti! Tutti convocati. Io ho rappresentato un riferimento perché ho preso una posizione dove poi... ora me ne fate una colpa perché mi dite che faccio troppo casino. Ma chi, Lucia? Ma di chi stai a parlare, Lucia? No, ma voi chi? No. No, me ne fate una colpa in generale, non in generale, perché si dice sempre di questa discussione continua che ho con il mondo giornalistico. No, io ce l'ho con quelli che ho davanti lì, che da quando sono arrivato, da quello che è il vivere qui, che si percepisce poi negli sguardi, nelle cose che si mandano. Ormai ci sono molti mezzi per mandarsi messaggi, per mandare gli avvertimenti, e qui, ragazzi, come? È una cosa differente da quella che leggete fuori. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? Io vado un pochettino in discussione perché penso che sia giusto difendere la Roma, perché si dice delle cose, si fa apparire un mondo diverso da quello che è della Roma. È diverso, la Roma è una cosa differente e è un giardino fiorito, Trigoria. E invece a volte l'ambiente, ambiente, ambienti che? No, e sono quelli che lo vogliono far essere brutto questo ambiente, ma l'ambiente è bello. Non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Nella passata edizione della mia permanenza qui come allenatore, io avevo ancora 2 anni di contratto. Per 3 anni sono finito secondo, il primo anno che sono finito quinto, sesto, non ricordo neppure, poi è cominciata una baraonda che non tu la sostieni più, avevo ancora 2 anni di contratto, glieli ho lasciati e sono andato via perché era insostenibile. Per cui perché puoi arrivare a quei punti di dover litigare? Si fanno le cose di volta in volta, si guarda quello che è il momento in base a come si è lavorato. Scusa Lucia, ma tra piede piocca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinde. Perché poi io qualche cosa bisogna rispondere, perché quando si tenta, secondo me, ingiustamente di dire delle cose, perché la Roma quest'anno ha lavorato in maniera corretta, ha lavorato in maniera seria. Sì, ma la sfiricuda della sbrindolona come se fosse Antani come faceva? L'Inter quest'anno sta facendo quello che ha fatto la Roma l'anno scorso. Se tu vai a vedere, qui sembrava di far niente, era un tourbillon continuo, è stato un litigio continuo per mettere in evidenza i numeri che accompagnavano questi calciatori qui, perché bisogna dargli meriti, sono loro che fanno fatica. Stasera si sono fatti trovare pronti. Blinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra, a destra, come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. E un po' di supercazzola Spalletti l'ha fatta, in memoria dell'immarcescibile indimenticabile Ugo Tognazzi. Roberto Renga, che è il decano dei giornalisti, non voglio attribuirti le tasse, giovanissimo decano dei giornalisti romani, ti sei preso anche tu dello sfigato nel blocco, no? Ti sei sentito toccato da questa definizione spallettiana così elegante? E Ciccio Graziani, indimenticato. Eccomi qua. Ciao ragazzi. Allora, intanto sì, saluto anche Ciccio. E saluti anche Spalletti, no? Sì, salutiamo anche Spalletti. No, ma io intanto mi rifaccio a 10 anni fa, quando lui se ne andò lasciando veramente il contratto, e nel senso che si dimise, e quindi sì, ovviamente tutti quelli che si rimettono ovviamente interrompono il contratto. Però si è dimenticato di dire una cosa, che si dimise e che i problemi nacquero solo dopo che lui si presentò al capezzale del Chelsea. Ve lo ricorderete a Parigi, sì, quando sì, no, si propose al Chelsea, sì, e Daniele De Rossi a domanda, eravamo a Vienna, disse che Spalletti chi? L'allenatore del Chelsea. I problemi nacquero lì. Poi dico, ma se ci furono così tanti problemi, perché è tornato se l'ambiente era irrespirabile? In realtà a Roma, e Graziani lo può confermare perché c'è stato, e c'è stato benissimo, e io ero già contemporaneo allora, a Roma si lavora benissimo. Secondo me Spalletti sta soltanto un alibi clamoroso per potersene andare. E anche secondo me, guarda un po'. Vuole andartene lasciando dei feriti e dando la colpa ai giornalisti, che poi i giornalisti di cui parla lui sono quei ragazzi dei siti e delle radio private, molti dei quali forse avranno il tesserino, io non lo so, ma tu sai bene come funziona il nostro ambiente, ma non sono gli inviati, i direttori, i caporedattori, i caposervizio, perché lì alla conferenza stampa non ci vanno quegli adulti, ci vanno i ragazzini. Ci vanno quegli adulti. Non ci vanno, gli adulti fanno vai tu, dai, io non vado più a una conferenza stampa che da 30 anni forse 30. Ciccio, cosa dici tu? Io sono d'accordo con Ren, ma a parte che mi fido di lui, però Spalletti sta creando le condizioni per andare via. No, ma io non, a volte veramente, guarda, da quando è tornato a Roma, io credo che di non essermi mai perso una conferenza stampa di Luciano, perché è sempre divertente, non c'è una conferenza stampa uguale alle altre, c'è sempre qualcosa, racconta sempre cose nuove. Ed era bello vederlo, perché a volte vedo le conferenze stampa, faccio l'esempio di Sosa, sì, di Paolo Sosa, quella di venerdì scorso era identica a quella di un anno e mezzo fa. Con Luciano questo non succede. Luciano è divertente, è spiritoso, è spigliato, è furbo. Non riesco a comprendere come si sia andata a impugnare una situazione così difficile, perché poi dopo alla fine del salmo le danze le gestisce lui. È lui che va in conferenza stampa. Se non ti va di rispondere una cosa, non ci rispondi. Se ci vuoi fare dell'ironia, ci fai dell'ironia. Se la vuoi enfatizzare, la enfatizzi. Puoi fare quello che ti pare. Il protagonista, l'attore principale sei tu. Ho l'impressione, non lo so, c'è qualcosa che di questi ultimi tempi di Luciano che non mi sorprende un po', mi dispiace un po', perché lui è artefice di alcune conferenze stampa straordinarie a Roma. Allora Ciccio, mettiamola così, piatta piatta, a Roma so, e Roberto Renga può confermare se ne ha voglia oppure no, gira voce che Spalletti a fine stagione, tutti sanno, vox populi, è che andrà via dalla Roma e andrà alla Juventus in ballottaggio con uno dei tuoi preferiti, quello che hai appena citato, cioè Paolo Sosa. So che Ciccio ha da dire su Paolo Sosa. Sì, ecco, a me non piace. Lo so che a te non piace, ma poi perché? Ricordami perché. Ma non mi piace perché oggi intanto allenare non significa stare solo sul campo, ma gestire tantissime cose. Non mi piace come si esibisce nelle conferenze stampa, perché nelle conferenze stampa un allenatore secondo me deve avere anche una grande forza di appartenenza alla realtà dove tu sei. Devi coinvolgere un pochino anche la gente, farla partecipe della tua realtà, invogliarla a venire allo stadio, partecipare di più alle sorti della squadra, gestire meglio la squadra in campo. Ragazzi, io non ho mai visto solo una volta cambiare assetto tattico durante una partita a quella squadra. Cambia Kalinic per Babacar, sì, per Kalinic, cambia Teglio per Chiesa, Chiesa per Teglio. Cioè, fa delle cose scontatissime. È una cosa che a me non mi piace, perché dalla panchina incide poco, non mi cambia mai nulla. Anche nelle situazioni difficili, e per questo è un allenatore che non, cioè, mi piace. Tu dici fa il compitino e punto e basta. Secondo me non riesce manco a fare il compitino, per come lo vedo io, ma non vorrei essere esagerato, però io ritengo sempre che per arrivare a quei livelli devi essere bravo. Però a me non mi emoziona come allenatore, soprattutto non mi piace quando fa dei cambi, e io avrei fatto totalmente al contrario, però lui allena in Serie A, io no, molto probabilmente mi ricordo quanto hai detto dopo la partita con il Milan di Milano. Anch'io in realtà il cambio di Chiesa non l'ho capito, era il migliore della Fiorentina in quel momento, ma è inutile star lì a rivangare quel dettaglio lì. È aria fritta, è tempo perso. Ecco, ma tra i due, tornando a Roberto Renga e ovviamente a Ciccio Graziani che controbatterà, si dice che Spalletti lascerà la Roma per andare alla Juventus. È un profilo adatto? No. Questo Spalletti? Allora, no, soprattutto dopo quello che sta facendo adesso. Tu ce la vedi la Juventus? Appunto, è questo che ti sto dicendo. Arriva un signore che si chiama Spalletti e comincia a litigare con tutti quelli che gli stanno davanti. Ma qui soltanto a Roma, per esempio, non interviene il club. Ma sai che veramente il club non è mai intervenuto in questa vicenda, o per dire ha ragione Spalletti o per dire ha torto Spalletti. Io comunque, da quello che so, Andrea Agnelli non sarebbe favorevole, non è, tolgo il condizionale, non è favorevole a Spalletti. E le vicende di Andrea Agnelli, adesso il deferimento per la famosa storia dei biglietti, fanno sì che Andrea Agnelli verrà confermato dal cugino. E quindi se verrà confermato, come ormai sembra scontato perché ci sono state dichiarazioni pubbliche, Spalletti non va alla Juventus. Però non è che rimane a spasso, perché ha altre, da quello che so io, ha 4 offerte. Sì. Una delle quali è la Juventus, un'altra italiana e 2 dall'estero. Ma la cosa è sicura è che lui se ne vuole andare, perché ha deciso di andarsene. Sì. Ma c'è bisogno di lasciarsi così? No, ma infatti c'è anche bisogno di battezzare il suo successore, come ha fatto ieri sera con Di Francesco. Sentiamolo. Di Francesco, che vuol sapere come l'aveva preparata la partita, perché giustamente, come tutti quelli che sono stati a Roma, ci tengono a ritornarci e a lavorarci, e si è anche giustamente offerto perché è un grande allenatore. Però adesso dire che Di Francesco si è offerto alla Roma, Luciano, no, forse ti è scappato. Oggi c'era scritto, no, si è offerto, nel senso ha detto l'allenatore, se poi l'ha detto lui oggi, ha detto se, ma non era per... Non, ho detto non era polemico, grande, non era polemico, poi hanno lavorato anche insieme. Amor di Dio, Dio santo, l'ho letto oggi. Vabbè. Ciccio, cosa ne pensi? Che c'è un po' di esagerazione, anche perché poi è Luciano che gli compete andare a dire di Francesco, appunto, o di altre cose. Appunto. Luciano ha sempre detto, fino a un mese fa, ha detto se non vinco vado via da Roma, e si è assunta anche una grande responsabilità, secondo me esagerando, perché vincere non è mai facile, è molto cosa, difficile. Ormai cosa può vincere? Cioè, però, consideriamo secondo posto una vittoria, come potrebbe essere, almeno nei numeri, nell'importanza del piazzamento. No, una vittoria significa portare un trofeo. Alzare la gettoria. A meno che non ci sia qualcosa di eclatante, di importante a livello sportivo nel ritorno contro la Lazio, e poi ci sarebbe da fare anche la finale, perché, ecco, quello sarebbe un trofeo. Se vince la Coppa Italia è un trofeo. Il secondo posto mi sembra che diventi un obiettivo normale, perché la Roma era partita per contendere la possibilità di non fare vincere lo scudetto alla Juventus, quindi secondo posto andrebbe benissimo, ci mancherebbe, però è nella realtà. Volevo soltanto dire una cosa: io non so dove andrà Luciano, ma a livello di allenatore a me è sempre piaciuto, perché ha carisma, personalità, ha grande voglia di fare bene, e quindi i grandi club potrebbe allenare tutti. Poi se va la Juve o non va la Juve, questo sì, ma non mi sembra, sì. Non Ciccio, mi sembra un profilo. Vai Roberto. Posso farti una domanda? Ma non pensi che per esempio nel ruolo dell'allenatore ci sia anche un aspetto che è quello che riguarda la comunicazione? Sì, certamente sì. Ecco, perché io ho detto, mi stupisce il fatto che in questi ultimi tempi si sia andata a impugnare una realtà così anomala. Perché, ripeto, Luciano è sempre stato molto intelligente, furbo, scaltro, che le conferenze stampa ha sempre gestite come ha voluto lui. Se gli va di rispondere, risponde, se non gli va di rispondere, non risponde. È lui il protagonista, è lui l'attore principale di quella realtà. E appunto, però, tu lo prenderesti uno che gestisce la comunicazione in questa maniera? Punto interrogativo. Guarda, sarò brevissimo. A me è capitato di insegnare comunicazione a Coverciano, al settore tecnico, ad allenatori straordinari come Ancelotti, gente di questo tipo. La cosa che dicevo sempre: date sempre ragione ai giornalisti. Se il giornalista vi fa una domanda particolare, voi ditegli: non interessa quello che penso io, mi interessa invece quello che pensi tu. La maniera per aggirare il famoso ostacolo giornalista, comunque, che è grazie al quale gli allenatori e i giocatori guadagnano un sacco di soldi. Ma noi Roberto, lo prenderesti uno che si fa così, che litiga con tutti? E ti assicuro, Ciccio, tu conosci bene Roma, senza un motivo, all'improvviso ha fritto. Così. Roberto, io sono sempre stato di quelli che ho sempre detto che senza i giornalisti non saremmo mai diventati quelli che siamo. Non ho litigato mai con te. Allora, però per esempio non mi ricordo che la Juventus sia intervenuta una volta che litigarono Allegri e Sacchi, tanto per fare un esempio, che nel calcio ci può stare, in un dibattito televisivo ci può stare uno screzio, una parola in più, una parola in meno. Però io voglio pensare a Luciano come un allenatore serio, un allenatore capace, un allenatore bravo. Lo è, poi non dopo, c'è dubbio. Poi dopo, in questi ultimi tempi, credo che con il diverbio ultimo che c'è stato in sala stampa, non credo che gli abbia portato assolutamente dei vantaggi dal punto di vista della persona, ecco. Sì, si è fatto un autogol, Ciccio. Siamo tutti d'accordo, Pardo compreso, ne abbiamo parlato pure prima. Si può aver fatto un piccolo autogol, ma nella vita chi non fa niente non sbaglia mai, chi fa qualcosa. No, lo so, però resta il fatto che questa crociata, comunque, il motivo che sta in fondo a questa crociata, perché un motivo c'è di sicuro, è quello che tutti intuiamo, mi sembra evidente. Grazie Roberto Renga e Ciccio Graziani. Torniamo presto a sentirci. Ciao. Ma non ho capito, Roberto da provincia di Battipaglia c'è? Sì, buongiorno Roberto. Pronto? Pronto, dica. Da Andria, non da Battipaglia. No, ma buongiorno dottor Genta, io leggo quello che mi hanno scritto. L'ascolto sempre con piacere, perché la trovo una persona molto misurata. Ecco. Grazie. Perché quando ha parlato Giletti oggi sono rimasto un po' schiattato, nel momento in cui il signor Giletti ha tranquillamente detto che negli anni di Calciopoli è stato accertato che l'Inter ha avuto maggiori responsabilità della Juve. Quindi, in altre parole, ha detto che in fin dei conti l'Inter ha commesso dei reati più gravi della Juve. In quel momento io da lei mi sarei aspettato almeno un invito al signor Giletti io ad assumersi le responsabilità. Detto, ma se assume, questo sarebbe stato, Roberto, questo sarebbe stato pleonastico. Cioè, ecco, perfetta, no, un sarebbe certo stato. No, per radio, sia da parte sono. Che del dottor, allora, io Pardo, sono. E concludo, se mi fa dire sì, un attimo. Dica. Sarebbe stato più corretto, secondo me, deontologicamente, anche far intervenire qualche rappresentante dell'Inter per controbattere alle dichiarazioni, sì, a parte il fatto che io non voglio anche allora la diffamazione e la calunnia da parte del signor Silenzi. Allora, poi ognuno dice le cose che vuole, per grazia di Dio, ognuno dice le cose che vuole, se ne assume pienamente la responsabilità. Giletti è un eccellente giornalista ed è un eccellente conduttore, è juventino, in questa polemica lui la pensa in quella maniera, ognuno è libero di pensarla come, come meglio crede. Io mi sono limitato a dire, come penso sia mio dovere, che non voglio poi scadere nella baruffa chiozzotta, no? Nella litigio da cortile, poi chiama l'interista e poi si insultano, e poi, perché sono cose che a me non divertono semplicemente. Io mi sono limitato a dire, Giletti presente, che comunque ci sono delle sentenze che sono depositate, sono in giudicato e fanno giurisprudenza per quanto mi riguarda, appunto, e basta. Quindi poi, se vogliamo rimestare l'etamaio passato, facciamolo pure, magari con da qualche altra parte, ecco, non mi dispiacerebbe, non so come usare altre parafrasi. Io invece, una cosa che invece a me piace molto, è la top 3 delle dichiarazioni del fine settimana, a partire da Mazzone, ieri ottantenne. A proposito, facciamo gli auguri al mister su Totti e sul trattamento che Spalletti, e chi se no, gli riserva. Sarebbe stato bello avere Totti e Baggio, due mezze ali, e dietro gli mettevo giocatori di quantità, intensità e agonismo, così loro giocavano tranquilli. Ma io non voglio polemizzare con Spalletti, ogni tanto un bel po' lo mette fuori un campione come lui, che ha vissuto per il calcio, lui, la sua famiglia, e insomma, penso che è scioccante. Allora, Sarri, oltre alle partite a mezzogiorno e mezzo, non piacciono i giocatori con la valigia in macchina perché devono andare in nazionale. Non gli piacciono anche perché deve inventarsi nuove e rivoluzionarie metodologie di allenamento. Queste due settimane adesso per la doppia sfida contro la Juventus, in una città come Napoli, come si preparano? Perché sono comunque tante due settimane di attesa. E si prepara a briscole 21, perché si rimane in 4-5 soli, quindi sì, non si prepara. Fortunatamente c'è una partita così importante e bella da giocare che perdiamo solamente un po' di lavoro tattico, perché a livello mentale penso in questa occasione non ce ne sia bisogno. E io propongo un bel torneo che magari rassereni gli animi. Ieri è successo un altro episodio inqualificabile, assalto a un pullman di tifosi di Napoli, juventini, che stavano andando a vedere la Juventus e che hanno subito un agguato da parte di, non solo tifosi, ma di delinquenti armati di spranghe che stavano andando a seguire il Napoli ad Empoli. Agguato documentato, penso premeditato, anzi sono certo premeditato. Per fortuna i delinquenti di qui sopra sono stati fermati e presto verranno presi provvedimenti. Però, al di là di questo, io propongo, anche per alleggerire la tensione tra Napoli e Torino, che organizzino un torneo di briscola 21, perché anche Allegri penso abbia gli stessi problemi. Ci si può invitare e fare un bel quadrangolare della pace anche Pioli e Spalletti, proprio Spalletti, perché mi pare che anche loro dovranno allenarsi con giusto un numero di giocatori adatto a giocare a carte. Allora, infine, Roger Federer, volevamo parlarne oggi, ma lo faremo domani naturalmente, che ieri ha confermato come quella di Australiana non sia stata un'avventura ma una storia vera, vincendo Indian Wells. Questo è il commento del suo rivale di ieri, battuto, nonché amico, Wawrinka. I would like to congratulate Roger. He's laughing, he's an asshole, but it's okay. Per dimastica un pelo di inglese, ha detto complimenti a Roger Federer, mio grande amico, ma è anche un grande stronzo, dopo averlo battuto, oltre che in Australia, anche stavolta 6-4, 7-5, ma grande Roger Federer. Ragazzi, appuntamento domani alle 14, come vedete riusciamo sempre a divertirci abbastanza insieme. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!